Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, benvenuti ai nostri ascoltatori. Oggi parliamo di sanità, ne parliamo sulla base di un'inchiesta del Sole 24 Ore del lunedì, che curata da Roberto Turno, che abbiamo in linea. Buongiorno Roberto Turno. Franco, buongiorno agli ascoltatori di Radio 24. Roberto Turno è inviato, esperto del Sole 24 Ore della Sanità, e ha scritto questa inchiesta sui 30 anni del Servizio Sanitario Nazionale. Servizio Sanitario Nazionale che è stato appunto introdotto sotto l'aspetto dell'universalità della cura. Questo era un po' il senso della riforma di 30 anni fa, e che adesso fa un po' i conti con se stesso, i conti con un'efficienza messa in luce dal fatto che la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato dei giudizi largamente positivi su questo servizio per la sua efficienza, per la sua efficacia, è al secondo posto del mondo. Ma c'è anche un aspetto di costi: in questi 30 anni ha accumulato 57 miliardi di disavanzo, quasi 1000 euro a testa, 1000 euro per la sanità. Ma forse per la sanità vale la pena anche che lo Stato spenda 1000 euro a testa per ogni cittadino. Allora, Roberto Turno, complessivamente, come si suol dire, un bilancio a luci e ombre, però probabilmente in questo caso, dato che è un sistema, quello della sanità, che riguarda tutti, è un bene essenziale come la salute, forse il disavanzo è un'ombra che non offusca la luce complessiva di un servizio che, pur con tanti difetti, però complessivamente funziona. Roberto Turno. Assolutamente no, dici bene, se anche poi la questione dell'efficienza che hai sottolineato giustamente prevale su tutto, perché il diritto alla salute è conquistato in applicazione dell'articolo 32 della Costituzione, dopo decenni di dibattiti è stato un successo ineliminabile. Tuttavia ciò che spendiamo per la nostra salute, ciò che diamo come contribuenti deve essere ben speso. Questo è il limite davanti al quale sempre più ci si pone, e ci si pone dal 92, è proprio l'anno di un'altra crisi internazionale che portò l'Italia con quel governo nel 92 con Giuliano Amato a dire basta col tutto a tutti. E in questi 15 anni, questo è stato il senso della prima riforma, molto importante, tanto più questo se consideriamo quello che è il fattore cardine che avremo davanti, cioè l'invecchiamento della popolazione, perché questo significherà spendere sempre di più, cure sempre più appropriate, sempre più costose, davanti a una popolazione attiva che sarà sempre minore. Ecco, ricordiamo i dati: dal 2050 la popolazione oltre i 65 anni sarà il 33% della popolazione italiana, mentre adesso sono il 19%, quindi una crescita per fortuna anche della speranza di vita, si allunga appunto la vita media. Questo grazie anche al Servizio Sanitario Nazionale, però un po' da vecchi ci si ammala forse un po' di più, quindi i costi per il servizio sanitario sono destinati ad aumentare. In questo senso le politiche di controllo della spesa, Roberto Turno, negli ultimi anni hanno avuto efficacia? Assolutamente direi di sì, che poi basti, come dire, è un altro paio di maniche. Siamo davanti a un'altra sfida ora, che è quella del federalismo. Credo che sarà una riforma da maneggiare con grande cura, con grande attenzione, proprio per evitare che le sperequazioni attuali, che sono, come dire, il lato oscuro di ciò che è stato il risultato di 30 anni di riforma sanitaria, ci hanno lasciato. Se mi permetti Gianfranco, non per fare un elogio all'SSN, per farlo, io credo che la classifica con cui nel 2000 l'OMS aveva posto l'SSN come secondo servizio sanitario al mondo sia stata in qualche modo un po' benevola, anche se fondata su criteri validi. Però vorrei dire una cosa: siamo alle prese con una crisi internazionale di proporzioni che la radio non si stanca mai di ricordare. Ecco, pensiamo una cosa noi, fossimo in America con questa marea di disoccupati che avanza, un sistema assicurativo come quello statunitense lascia già senza assistenza 50 milioni di cittadini, senza assistenza. Con la disoccupazione che incalza, quanti altri italiani sarebbero senza alcuna sicurezza dal punto di vista dell'assistenza? Ecco, questo credo sia il punto fermo, vero, intorno al quale ragionare per quello che potrà essere il destino delle nostre cure. Ecco, mi sembra una riflessione opportuna, ringrazio Roberto Turno. Ricordo gli ascoltatori, il numero verde, l'800240024. C'è anche un aspetto, tuttavia, che va ricordato di questo Servizio Sanitario Nazionale. Il fatto che è un servizio sanitario che comunque prevede, anzi come parte integrante del servizio, una partecipazione anche dei privati. Lo ricorda anche oggi il Sole 24 Ore in questa analisi, appunto gli ospedali pubblici sono 645, gli ospedali privati accreditati sono 563. Quindi Roberto Turno, è un sistema pubblico come garanzia, un sistema che è universale perché copre tutta la popolazione, però prevede un intervento anche dell'ospedalità privata, quindi di un settore che si basa un po' sulla concorrenza e forse dove esiste un po' di concorrenza, un po' di confronto, un po' di possibilità di scelta da parte dei cittadini tra gli ospedali pubblici gli ospedali privati, anche la stessa efficienza del sistema ne risente positivamente. Roberto Turno. Sicuramente, noi anche se non lo si capisce abbastanza siamo già in un sistema pubblico-privato, dove più, dove meno. Questo però va detto senza fare il tifo, perché poi si scivola facilmente, fatalmente in quelle che sono le idee personali, quindi le scelte politiche. Non c'è, va detto, alcuna parità tra pubblico e privato, perché l'ospedalità privata, per esempio, è penalizzata dal tipo di pagamento, dalle regressioni tariffarie. Ciò che viene lamentato è proprio la mancanza di una par condicio. Ecco, in questo senso c'è molto da fare. Il tema qui è quello di separare o meno la doppia funzione che ha lo Stato, che è quello insieme di finanziatore e di erogatore del servizio. Ecco, questi sono gli altri passi intorno a cui si ragiona da anni e che credo prima o poi saranno affrontati in maniera un po' diversa dall'attuale. Ecco, ci sono alcuni sms da parte degli ascoltatori abbastanza drastici: il sistema sanitario non funziona, le code, le liste d'attesa, le code sono lunghe e il pubblico non fornisce un servizio efficiente. Ecco, ovviamente in poche parole le proteste di chi probabilmente si è trovato in casi in cui indubbiamente ci sono dei casi in cui gli ospedali non forniscono un servizio efficiente. Qui chiamo in causa Roberto Turno, indubbiamente non sono tutte rose e fiori, il sistema sanitario ha, come abbiamo detto, anche i suoi difetti e questi forse si accentrano in alcune regioni. Anche qui è un sistema sanitario che, dipendendo peraltro anche dalle amministrazioni regionali, presenta degli aspetti di diversità anche nella stessa efficienza. Ecco, quindi è sempre bene dare dei giudizi che non sono, appunto, possono essere particolari, possono essere generali, non riassumono mai bene la situazione. Però possiamo dire, Roberto Turno, che come dinamica il sistema sta cercando di attuare un'efficienza. Roberto Turno. Assolutamente sì, chi paga, come dire, ha sempre ragione, chi poi paga sulla propria pelle storture, difetti, ritardi, burocrazia, cattivi comportamenti e comportamenti anche del truffaldini che purtroppo non mancano, lo stiamo vedendo negli ultimi vicende in Calabria, per esempio. L'abbiamo visto in Campania pochi mesi fa, ma non so, ha sempre ragione. E la sfida dell'efficienza, come abbiamo detto, è quella davanti alla quale non ci si può più sottrarre. Non lo si può fare perché la situazione finanziaria non lo permette, non ce n'è più per tutti, questo è un fatto, ma non lo si può permettere perché quando ci sono davanti le cure non ci sono giustificazioni che tengano. Le politiche di questi anni, i patti con le regioni dal 2001 in poi, hanno dato sicuramente già molti risultati. L'ultimo anno di cui si ha traccia, mi spiace parlare di soldi, come dire Gianfranco. Ogni tanto ce n'è bisogno. Ecco, però se quello è un punto di riferimento. I dati che abbiamo a disposizione dell'ultimo anno del finanziamento della spesa, quindi sono quelli del 2007 più o meno, ci dicono che sempre più sono un pugno di regioni attorno alle quali si raccoglie il disavanzo, sono circa 6-7, quindi come dire che tutte le altre in un modo o nell'altro ce l'hanno fatta, ci basti, non ci basti per quanto ci hanno dato questo altro paio di maniche, ripeto. Ecco, di queste 7 regioni ce ne stanno almeno 3, come le chiamano con cattiveria, ma anche quelli di centrosinistra, le regioni canaglia, Campania, Lazio, Sicilia, Calabria, in particolar modo, intorno a 3-4 si raccoglie l'80% del disavanzo. Ecco, il problema, io credo, di fondo, dopo 30 anni resta quello di prima, il Sud. Ed è questo da tutti i punti di vista, perché poi se lo vedo da un punto di vista dei ritardi finanziari, lo è tanto più da un punto di vista dell'efficienza, rapporto personale, posti letto, i viaggi della speranza, parliamo in Italia di 1 milione di persone che in un modo o nell'altro per curarsi devono andare via da casa. Ecco, di questi viaggi della speranza almeno il 70% coinvolgono le regioni del sud e in parte della parte del centro-sud. Ecco, penso che questo sia un indicatore molto evidente, ma molto evidente della situazione italiana. Grazie, sentirei Vittoria da Roma, buongiorno. Buongiorno, io ho sentito con piacere di questo nostro successo italiano, perché è un successo, rispetto all'universalità di un servizio che non dovrebbe essere mancare a nessuno Stato. Quindi quando parlavate prima e dicevate dei 1.000 euro, io trovo che sia giusto che lo Stato spenda minimo una cifra del genere rispetto ai disservizi a cui, per esempio, io sto in macchina e praticamente sto superando tutte le buche che si trovano per la strada. Quindi diciamo questo è un disservizio, per non dire tutti i marciapiedi che mancano a Roma e soprattutto nella periferia. Tornando al servizio sanitario, potrei soltanto aggiungere questo, il mio contributo è questo, dire che forse una piccola efficienza in più potrebbe essere data proprio dalle strutture ospedaliere. Io dico un piccolo contributo. Per esempio, io spesso ricevo degli SMS da parte della struttura ospedaliera dove vado di più, diciamo, quando ne ho bisogno, la quale con un SMS mi ricorda l'appuntamento, con un altro SMS mi ricorda se mettono dei nuovi servizi. Ecco, e per quanto riguarda il Sud, io direi questo, proprio ai medici suggerirei di educare, purtroppo noi andiamo educati come cittadini, mi dispiace dirlo, ma è così, abbiamo bisogno sempre di qualcuno che ci dice cosa dobbiamo fare. Ecco, allora in questo caso proprio i medici potrebbero nelle prescrizioni dire molte volte di non usare medicine che non servono, di ottimizzare in questo senso, quindi diciamo le strutture e i medici potrebbero fare molto per educare di più il cittadino al risparmio. Grazie per questa testimonianza, stiamo parlando con Roberto Turno, inviato esperto del Sole 24 Ore, dei 30 anni del Servizio Sanitario Nazionale, la sanità una cosa che prima o poi riguarda tutti i cittadini, un servizio sanitario abbiamo visto nella prima parte, ovviamente a luci e ombre abbiamo sentito sentito un'ascoltatrice da Roma che diceva che il sistema sanitario in fondo ha acquisito anche alcuni metodi di efficienza del privato, anche se appunto forse su altri settori il servizio pubblico non si presenta altrettanto efficiente. E anche alcuni SMS ci dicono adesso, dopo i primi SMS che erano abbastanza critici, dicono il servizio sanitario pubblico funziona bene rispetto ad altri servizi pubblici come la giustizia, che invece funzionano abbastanza male. E un'altra ascoltatrice dice: ho una malattia cronica e devo ringraziare la sanità per tutta l'assistenza che mi dà. Io sentirei prima di Roberto Tuno un altro ascoltatore, Rosa Maria da Genova, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'intervento. Prego. Senta, io mi sono posta questa domanda, a parte il disastro che è stato fatto con questi 30 anni, perché io li ho vissuti prima, ho valutato quando hanno trasformato e sapevo che sarebbe andata la catastrofe. Certo che ho capito che assicura tutti uguali, però la qualità, mi dispiace, ma è scaduta spaventosamente. E sono andata un pochettino ad analizzare, ditemi se ho sbagliato, l'origine. L'origine che vale non solo per i medici, ma vale per i magistrati, per tutto. Da quando le facoltà sono state date ad accesso a tutte le scuole inferiori, parliamo dei licei, istituti tecnici, la qualità è andata a rotoli. Dunque, prima si usciva, si poteva fare il medico quando si usciva dal liceo classico, dal liceo scientifico, insomma, da determinate cose. Ora, com'è possibile, senza una base culturale di un certo livello, arrivare a medici, arrivare a avvocati, arrivare a giudici, senza conoscere determinati mondi che si insegnano e si imparano nei licei? Ma com'è possibile? Questa è stata per me la catastrofe. Cioè bisogna andare. La ringrazio di questa osservazione. Ecco, lei usa i termini forti di catastrofe. Mi sembra che per il Servizio Sanitario Nazionale si possa parlare di tanti difetti, ma probabilmente non di catastrofe. Indubbiamente lei mette in luce un altro problema, che è quello della formazione dei medici, la formazione dei medici, che forse è un altro tema rispetto all'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, anche se ovviamente è centrale il fatto che il medico sappia fare il proprio mestiere all'interno di un servizio sanitario nazionale. Roberto Turno. Ecco Gianfranco, l'ascoltatore prima ancora aveva usato così un termine che mi è piaciuto molto, le buche delle strade, quindi le buche dell'SSN sono tante, questo non se lo nascondono neanche i più tenaci, a volte eccessivi, dei difensori del servizio del pubblico. Sono d'accordo con te che non si possa parlare di catastrofe. Certo, fra le altre sfide, perché queste sono tutte sfide che abbiamo davanti, abbiamo discusso di Gianfranco nei giorni scorsi, cioè quello di per esempio fare una sorta di classifica degli ospedali, cioè di sapere dove andiamo, cosa ci danno, come ce lo danno, in quali termini, con quali prospettive. La stessa cosa può valere per sapere di più della classe medica. Ora, io non sono un sostenitore delle classifiche di Brunetta applicate così alla sanità, però anche questi sono casi. Ti volevo dire agli ascoltatori una cosa che mi sembra sintomatica di quello che è insieme che non è l'SSN. Pensa, nello staff di Barack Obama per la sanità, diciamo che nel pool di super esperti su cui stanno ragionando c'è un direttore generale di una ASL ed è il direttore generale dell'ASL di Cagliari, non perché io sono di Cagliari questo, che è stato già selezionato, che andrà forse lì con 10 super esperti internazionali proprio per, come dire, importare, per cercare di importare ciò che può essere virtuoso del servizio pubblico in un sistema assicurativo qual è quello dell'SSN. Io penso che questo caso ce la dica lunga anche dei passi in avanti che sono stati fatti nella conduzione e nella formazione, nella preformazione di una classe degli amministratori che non è più quella dei comitati di gestione della SAUB, delle prime ASL, no? Certo. Non avevamo presidenti macellai, con tutto il rispetto per la classe, però gente che È un altro mestiere. Ecco, che poi in tutto questo resti l'invadenza della partitocrazia, l'invadenza della politica, questo è verissimo e questo è uno, sicuramente uno dei punti intorno ai quali si dovrà ragionare, perché la sanità per una cosa è di gestire, una cosa è dare gli indirizzi politici. Ecco, indubbiamente non dobbiamo dimenticare, giustamente ricorda Roberto Turno, che la sanità è fatta anche di organizzazione, fatta anche di amministrazione, che molta dell'efficienza deriva anche dalla struttura organizzativa, dagli ospedali e non solo, dalla classe medica, dalla classe sanitaria, che è fondamentale, ovviamente importante, però la sanità è qualcosa di complesso, qualcosa di che richiede appunto una gestione complessiva efficiente da parte di tutti. Ecco, qui vedo molti SMS, anche qui molti citano dei casi singoli di efficienza o di inefficienza. Ovviamente ognuno può portare la propria testimonianza, che può essere positiva in casi in cui il servizio sanitario ha funzionato, negativa nel caso di lunghe code. Sentirei Vincenzo da Ferrara. Rapidamente, se può, grazie. Buongiorno, niente, avrei qualcosa da obiettare riguardo a quello che aveva detto il professor Ospite un attimo fa. Riguardo all'efficienza della sanità pubblica, è palese davanti a tutti, sono degli sprechi enormi. E poi vedi qua a Ferrara, poi l'ospedaliero di Cona, che è ancora un cantiere a cielo aperto, che deve essere inaugurato nel 2003. E poi quello che a me lascia molto perplesso è che uno, quando cerca delle visite specialistiche, tramite la sanità pubblica, sono 2 o 3 mesi da aspettare, se pago il giorno dopo c'è posto. È stata la nostra risposta per radio. Saluti, buongiorno. Grazie mille. Roberto Turno, questa appunto, differenza tra pubblico e privato esiste, ma sul fronte appunto dell'efficienza, dei ritardi nei lavori, le responsabilità è delle regioni. Le liste d'attesa. Purtroppo questo è un dramma non solo italiano, che però è di una gravità inaudita. Anche questo è una questione, voi di buona gestione, voi di partecipazione concreta, attiva al bene pubblico dei professionisti, perché poi si possono fare tanti raggiri. Per non concedere tempi civili a un malato. Ed è anche questa una questione intorno alla quale necessariamente si deve operare. Bada però una cosa, che il discorso delle liste d'attesa certo vale nel pubblico, però anche quando vai in una struttura non pubblica, ma convenzionata, per eccetera eccetera, guarda che anche lì capita che se paghi subito, se paghi di tasca tua, poi c'è tutto prima. Certo, questo è vero, ma indubbiamente però ci non bisogna dimenticare, e qui dobbiamo purtroppo concludere, il fatto che il Servizio Sanitario Nazionale è anche un servizio che prevede, che garantisce delle prestazioni di assoluta eccellenza in campi di medicina dove sarebbe estremamente costoso per operazioni di alta chirurgia, per esempio, rivolgersi, se fosse possibile, alla sanità privata o all'estero. Qui il Servizio Sanitario Nazionale prevede anche questo ed è stato capace, pur con tanti difetti che abbiamo visto, di dare anche degli esempi, dei casi di eccellenza all'interno degli ospedali e all'interno di strutture sanitarie. Ci dobbiamo fermare. Ringrazio Roberto Turno, inviato esperto del Sole 24 Ore, che ci ha accompagnato in questa veloce analisi del Servizio Sanitario Nazionale. Ringrazio gli ascoltatori, Carmelo Loricella in regia. L'appuntamento è per domani.